Io vivo a 50 metri da quel cinema ed è un cinema che frequento direi abbastanza assiduamente come tutti i cinema di Bologna. Quello che ho fatto, ci tengo a chiarirlo, è semplicemente cercare di dare un canale di comunicazione a tutti quelli che giovedì sera, quando il cinema stesso ha fatto un post dicendo di dare voce, se volevamo, a un dissenso che poteva esserci per questa possibile chiusura, e tutti scrivevano sotto il post del cinema: non fatelo, non chiudete. Io semplicemente ho pensato di fare la prima petizione che faccio nella mia vita, cercare di creare un canale di comunicazione per forse un altro centro di interesse, no? Potenziali portatori di interesse, che sono gli spettatori e la zona che beneficia, secondo me, di una grande attività sociale e culturale che è questo cinema. Non dico che sia più importante questo delle altre necessità della zona, sia chiaro, che possono essere gli scout, che possono essere gli studenti. Volevo semplicemente dare voce anche agli spettatori che sono interessati a frequentare questa sala. E direi che appunto gli spettatori hanno risposto in massa, perché 6.300 firme non sono cosa da poco, quindi significa che quello spazio ha veramente rappresentato un punto di riferimento. Assolutamente sì, e non mi aspettavo niente di tutto questo, perché tra l'altro io la petizione l'ho pubblicata solo sul gruppo di Facebook del quartiere, e poi a qualche amico dicendogli: per favore, se potete firmare, così almeno non è ridicola la mia petizione, che arrivano 10-15 firme, perché non avevo mai fatto una petizione in vita mia. E invece in 4 ore sono arrivate 1000 firme, e poi si è creato tutto questo movimento di comunicazione, anche questo movimento di tutti che vogliono cercare di salvare il cinema, che, ci tengo a dirlo, è un cinema che in teoria non andrebbe salvato di per sé. Non è quel cinema vuoto che uno può immaginare che non è frequentato, è un cinema che è sempre pieno, e quindi credo che anche questo abbia contribuito a creare questo forte interesse parte delle persone che lo frequentano. La vicenda è approdata anche in consiglio comunale, quindi qualcosa si sta muovendo. Ma io non ho nessun contatto di nessun tipo con altre realtà che stanno cercando di salvare il cinema. Ho letto questa cosa, ovviamente mi fa molto piacere. Credo che più se ne possa parlare di questa situazione, più attori scendono in campo, più si può trovare una soluzione che, ripeto, credo che debba essere una soluzione che risponde alle necessità di tutti. Io, parlando un po' con altre persone di questa cosa, siamo arrivati ad una conclusione, se vogliamo, un po' semplicistica, però creare spazi per gli scout, creare spazi per le attività studentesche è sicuramente una cosa più facile a livello di trovare gli spazi rispetto a costare un cinema. Ecco, non voglio banalizzare la cosa, ma sicuramente non perdiamo di vista l'attività importante che questo cinema fornisce ad una fascia di popolazione, che è quella che lo frequenta, con dei numeri strabilianti, tra l'altro, che avete letto anche, immagino, in tutti i post che ci sono. Quindi teniamola in considerazione questa fetta della popolazione. Non ci deve essere una contrapposizione tra cultura, religione e casa, quindi? No, io non credo, che credo che ci siano abbastanza spazi a Bologna, e ripeto, scusate la semplificazione, ma credo che ci siano abbastanza spazi a Bologna per trovare una soluzione che possa dare a tutti il proprio angolo, diciamo così, dove praticare l'attività degli scout, le attività degli studenti e anche il cinema. Voi pensate che, insomma, tu pensi che con questa mobilitazione perlomeno ci sia l'attenzione giusta per fermarsi e discuterne? Credo che aver mosso l'attenzione di 6.300, quelle che sono persone che hanno speso il proprio tempo per firmare, sia un segnale che va preso in considerazione. Vediamo, io spero ovviamente di sì, se no non avrei fatto la petizione. Spero che nella prossima assemblea, perché di questo si parla, di un'altra assemblea in cui si possa parlare di nuovo di questo spazio, si prenda in considerazione che una numerica molto elevata di persone vorrebbe mantenere lo spazio così come è oggi. Ecco, avete già calendarizzato questa assemblea? Allora, io non ho una data precisa, ho letto varie date, ma non ho ancora una data precisa, in questo momento non lo so. Però sì, sarà comunque fra poco, a breve. Stiamo parlando febbraio, non so esattamente qual è la data, ma davvero, io ti ripeto, io ho solo aperto un canale di comunicazione, non sono un portavoce, non sono chiamato a decidere nulla. Io ho generato lo spazio, e questo spazio è stato riempito da 6.300 firme. Di recente hanno anche aperto nuove sale in città, come il Modernissimo. Sarebbe un peccato che una sala che va bene venga chiusa, insomma. Esatto, questo sarebbe un grande peccato. Comunque io ringrazio voi per avermi chiamato e per aver dato spazio a questo messaggio che sicuramente interessa gran parte della città.